Buonasera a tutti, inizia Jardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Ecco, sfumiamo la sigla iniziale di questa trasmissione che sono i Behind Enemy Lines, così recuperiamo alcuni minuti perché siamo un po' partiti in ritardo con Jardins Magnetics che solitamente inizia alle ore 20, ma sono le ore 20:06 e che comunque andrà avanti fino alle ore 21:30. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, trasmettiamo da Udine e ora andiamo all'ascolto di questa band di Milano. Loro sono i Tenia dal loro album Altrove. Volevo ricordare che non ho detto all'inizio appunto della presentazione di questo programma che il prossimo giovedì non ci saremo purtroppo per questioni tecniche qui della radio e quindi saremo costretti a saltare il prossimo appuntamento, ma continueremo a ripeterlo anche prossimamente. Yeah! Del mastro condannato e Nordio disorientato e addolorato. Che risate! Diciamo che lui nei giorni scorsi aveva messo in un certo senso le mani avanti preannunciando che sarebbe stato condannato. Nonostante la richiesta di proscioglimento della procura, di assolverlo, i giudici in pratica lo hanno accontentato, smentendo sia la procura che la difesa. Beh, bisogna dire che la rilevanza penale del suo comportamento passa in secondo piano, perché il suo comportamento e quello del suo collega di partito Giovanni Donzelli fu un comportamento vergognoso, perché Del Mastro utilizzò delle informazioni che lui aveva appreso in virtù della sua funzione istituzionale di sottosegretario, di governante, sulle condizioni di detenzione di Alfredo Cospito, le spifferò a Donzelli, che poi per giunta le utilizzò in Parlamento per attaccare gli esponenti delle opposizioni, alcuni dei quali avevano ottenuto di costituirsi parte civile nel processo. Quindi si trattava comunque, al di là della condanna, della responsabilità penale accertata quantomeno in primo grado, di una storia molto brutta, proprio a livello politico, nel senso che una storia anche, voglio dire, strana, una brutta pagina della storia del dibattito politico in Italia, ecco. Certo, ecco, per il PM manca l'elemento soggettivo del reato, questo punto. Sì, perché il PM ha sostenuto che lui non sapeva che le informazioni che aveva preso fossero segrete. Ecco, tecnicamente è una ricostruzione che ci può anche stare, però per molti versi fa sorridere, perché uno che è laureato in legge, è avvocato da anni, sottosegretario alla giustizia, non sapeva che quelle informazioni erano segrete, insomma, è una ricostruzione quantomeno dubbia, anche se ripeto, tecnicamente ci poteva anche stare, perché la procura dal primo momento aveva preso questa posizione ed era stato il GUP, il giudice di udienza preliminare, a imporre l'imputazione coatta e a decidere per il rinvio a giudizio, che ha portato al processo che si è concluso oggi con la condanna di Del Mastro, che ha detto che lui spera che ci sia un giudice a Berlino che non si dimetterà. Allora, il problema delle dimissioni è un problema politico. Lui dice che non si dimette, probabilmente sarà così, perché a lui non mancherà l'appoggio e la solidarietà del governo e dei suoi alleati, che avranno apprezzato il fatto che Del Mastro e Donzelli hanno perseguito e perseguitato un anarchico in sciopero della fame per 6 mesi a rischio della propria vita, e quindi, siccome hanno perseguito il nemico pubblico numero uno di questa democrazia, di questa democratura, per cui lui resterà al suo posto. Del resto non è l'unico che resta al suo posto, ma questo, diciamo, è un problema politico. E comunque, per la storia terribile di Alfredo Cospito, questa sentenza non cambia assolutamente niente, anzi le sue condizioni non sono migliorate, anche sono peggiorate, perché il lungo sciopero della fame che ha fatto purtroppo è stato considerato in pratica, se non in teoria, scopo di terrorismo, perché lui resta al 41 bis senza che vi sia alcuna ragione perché ci resti. Ecco. Frank Cemini, grazie, buona giornata. Grazie a voi. We'll be right back. Ciao a tutte e tutti, anche da parte mia mi associo, insomma, i saluti iniziali per questa puntata del 20 febbraio di Zardins Magnetics. Siamo come sempre in diretta dalle frequenze 90 MHz di Radio Onde Furlane di Udine, in streaming, in diretta e in streaming anche rimbalzati da Radio Eustachio e Radiazione. Io ho il compito di andarvi a presentare velocemente i temi di cui andremo a parlare stasera per questa puntata di Zardins Magnetics. Come avete sentito, siamo andati a passati così un toccata e fuga su una notizia dell'ultima ora. Era un contributo da Radio Onda d'Urto, appena insomma messo sul web. Abbiamo rimandato un commento di Frank Cimini. Poi noi andremo a presentare un'importante iniziativa che si terrà sabato 22 febbraio qui a Udine, in zona stazione, ed è un presidio no zone rosse né a Udine né altrove, promosso dall'assemblea appunto no zone rosse, e appunto così andremo a presentare questa iniziativa. È un presidio con microfono eccetera, aperto eccetera, sabato mattina. Di seguito ci sarà un altro contributo che farò io sul discorso che facevo in precedenti puntate sulla rivoluzione, di cui adesso non c'è molto altro da dire senza dilungarsi. E infine ancora una presentazione di un'iniziativa sempre sabato, ma nella serata, una cena benefit spese legali per George Abdallah, di cui poi parleremo, tra l'altro, un altro argomento di oggi, proprio ultima ora, con proiezione di un documentario che si intitola Beyond the Walls, Oltre le mura, e parla e approfondisce con delle interviste, insomma è un filmato di Al Jazeera, approfondisce l'esperienza carceraria di molti, molti prigionieri palestinesi, libanesi, eccetera, insomma arabi, diciamo in generale, dentro le strutture, gli apparati delle prigioni israeliane degli ultimi anni. Ecco, questa la ricetta di questa sera per Zardins Magnetics. Lascio la linea ancora a un po' di musica. Hasta la tierra policía, penetrar en el agua vida. Stiamo ascoltando i Jilted, band di Alessandria, da questo loro album Split, con una band tedesca uscito nel 2003. Sì, a me il compito di appunto presentare l'iniziativa di strada di sabato 22 febbraio, tra due giorni qua a Udine. Allora, sono sì, super raffreddata, quindi chiedo alla regia di prestare attenzione, perché se mi viene un attacco di tipo di uno starnuto, robe così, di alzare la musica. E allora, appunto, l'assemblea contro le zone rosse e il DDL sicurezza ha organizzato per questo sabato, in Piazza della Repubblica, che è un piazzale appunto vicino in zona stazione, che è un quartiere particolarmente attenzionato dalle forze dell'ordine e militarizzato, questo presidio informativo dalle ore 11 circa in poi. E ci sarà appunto materiale informativo, volantinaggio, microfono aperto, per parlare con la popolazione appunto di cosa sono le zone rosse, di cosa è il DDL sicurezza, e di che cosa è lo stato di polizia nel quale stiamo vivendo, sempre in maniera sempre più radicata. E allora, rispetto a questo discorso delle zone rosse, in quella stessa zona lì, nel 2020-2021, insomma, era subito dopo le rivolte carcerarie a inizio pandemia e subito dopo la mattanza di Modena, avevamo organizzato appunto in quella zona un presidio proprio per ricordare i morti ammazzati a Modena e nelle altre carceri, insomma, i detenuti comunque di Modena che erano stati appunto ammazzati dalla mattanza poliziesca. E anche quella volta c'era la zona, quella volta era arancione, non era rossa. E appunto perché si era in pieno lockdown, quindi in piena gestione autoritaria delle problematiche sanitarie legate alla pandemia. Però questa zona qua, la zona, insomma, quartiere della stazione, era già stato, già nel 2020, il precedente sindaco Fontanini, adesso il sindaco è De Toni. Quella volta il sindaco era leghista, Fontanini, ora invece è di sinistra, diciamo centrosinistra. E appunto già Fontanini aveva così individuato la zona della stazione, nonché il centro storico, nonché altre zone tipo i parchi e insomma la zona dell'ospedale eccetera, come zone rosse, e quindi c'era questo pattugliamento, ma ancora non così strutturato come ora, questo pattugliamento comunque da parte di guardie giurate eccetera, in funzione anti ubriaconi praticamente. La roba si concludeva lì, cioè gli ubriaconi molestano il turismo, ti impediscono di vedere i monumenti avanti, e quindi c'era il divieto di bere alcol, di assumere alcol all'interno del quartiere della stazione, appunto in certi orari eccetera. Questa così provvedimento, che era poi non era nemmeno, cioè andava a parare del DASPO, ma era un provvedimento più veloce, che durava 48 ore, una sorta di divieto insomma temporaneo di andare, di stare, ecco qua, ordine di allontanamento di 48 ore, in caso di violazione scattava il controllo il passaggio al questore e quindi il DASPO urbano. Questo provvedimento, non voglio farla lunga, ma rileggendo le cose diciamo a distanza di qualche anno, emerge proprio in maniera plateale mediocrità del ceto politico di qualsiasi parte, e in particolare la mediocrità di questi sinistri figuri insomma che anche ora governano la città. E appunto quando Fontanini fa questa roba, Venanzi, PD, capogruppo PD, che ora è assessore alla polizia locale e anche ha deleghe per attività produttive, commercio, turismo, grandi eventi, PNNR, si esprimeva così di fronte all'ipotesi della zona rossa. Siamo di fronte, no aspetta, dopo questo provvedimento rischiamo l'arrivo della legge marziale, quindi aveva preso una posizione insomma che è molto fortemente critica. Ecco, che cosa fa a distanza dal 2023, quindi a distanza di un paio d'anni, questo Venanzi insieme a tutta la squadra? Allora, ecco cosa fanno. Praticamente mettono in piedi un sistema di sicurezza partecipata, c'è addirittura un assessorato alla sicurezza partecipata, quindi una sorta di assessorato alla delazione. Mettono in piedi una control room dentro la sede della polizia locale, e lo stesso Venanzi, sì, ho già detto che cos'è, vi dico anche questa perché importo mensile lordo della sua retribuzione 6.719 euro al mese. Questo signor Venanzi dice della control room di Udine: video wall e intelligenza artificiale, spesi 150.000 euro, una struttura all'avanguardia finanziata con soldi regionali che accrescerà notevolmente l'efficacia delle operazioni di polizia locale sul territorio comunale e i collegamenti tra polizia locale e le altre forze dell'ordine. E poi parla e si dilunga in faccende di sicurezza percepita e sicurezza vissuta dalla popolazione. Allora, quando si sentono queste cose, mi sono dimenticata di dire che Fontanini con questo provvedimento del 2020-2021 metteva in atto, diciamo, praticava sul territorio locale il decreto sicurezza Minniti, PD pure esso, cioè esso PD, Fontanini leghista. Ora c'è una giunta di centrosinistra che mette, praticamente realizza sul territorio locale lo stato di avanzamento dei decreti sicurezza, insomma, che si sono succeduti e che sono sempre più appunto totalizzanti. Vengono i brividi a pensare, cioè viene da ridere da un certo punto di vista, ma in realtà vengono i brividi a pensare che meccanismi analoghi ci sono anche, riguardano anche la detenzione amministrativa, no? Ne abbiamo parlato l'altra settimana. C'è il fatto che alcuni partiti, come appunto il PD, danno il via ad alcune cose. Vedi appunto i CPT al tempo, no? Nel 98, turco-napolitano. E poi la destra prende questi marchingegni e diciamo li perfeziona. E sostanzialmente anche per la questione della sicurezza delle città, per la questione del decreto sicurezza, dei vari decreti sicurezza e delle zone rosse stesse, siamo nella stessa, per come la vedo io, siamo nella stessa dinamica. E comunque ricordo l'appuntamento, è importante anche il luogo dove questo presidio verrà fatto sabato prossimo, e cioè Piazza della Repubblica, perché come dicevo prima si trova nella zona della stazione, che è una zona dove la guerra ai poveri, la guerra ai marginali, la guerra così alle persone non desiderate va avanti da parecchi anni, e dove ci sono anche tanti immigrati delle varie generazioni, quindi dove c'è sensibilità, diciamo, contro la repressione. E quindi l'appuntamento è in Piazza della Repubblica dalle ore 11, sabato 22. Sapevamo che lo stato ce l'è. Ogni punto lo stesso la strada. Ecco, di nuovo qui in voce dall'altra parte del vetro della regia, siamo per affrontare la questione appunto di avvicinamento, diciamo così, un percorso che stavamo provando a fare sul sui presupposti, cioè su una idea di rivoluzione senza presupposti storici, ecco, se vi ricordate un po' la puntata scorsa. Ma prima io devo ancora una volta ritornare all'attualità, diciamo in maniera imprevista, come sempre imprevista, diciamo, la scomparsa delle di chi sta al mondo insieme a noi. E in questo caso si parla comunque di una persona molto di età molto avanzata, stava avvicinandosi al 100 e comunque, ecco, non c'è più. Dorino Cantarutti, per tutti, diciamo, quelli che lo conoscevano, Doro, ex, cioè no, mai ex, diciamo un partigiano della guerra di liberazione, friulano, e di cui hanno parlato anche i media, cioè così, i giornali locali qui, quindi non, per chi ci ascolta dal Friuli, insomma, non dico niente di nuovo, per chi ci ascolta da fuori forse sicuramente sì, perché appunto la sua fama si fermava, diciamo, al locale. Comunque voglio solo dire questa cosa qui senza farla tanto lunga, e noi l'avevamo conosciuto anni quasi 20 anni fa, e anche per un po' frequentato, e eravamo stati insieme tra l'altro alla passerella sul Baccia qui nelle valli, ma nella Valle dell'Isonzo, dove da ragazzo, durante la sua esperienza nella Garibaldi in Atisone, aveva affrontato un agguato che era stato portato, insomma, dai repubblichini, tra l'altro dalla Repubblica di Salò contro la divisione Garibaldi in Atisone che si stava trasferendo nell'area, diciamo, dell'alta valle dell'Isonzo, per farla breve, e aveva così, sì, era stata una bella giornata quella lì, dove appunto aveva quello che, tra l'altro, adesso mi ricordo che sono passati anni anche per me dall'ultima volta che sono passato lì, ma comunque mi ricordo che c'era già da un po' un cippo, ma quella volta che eravamo stati insieme non c'era un bel nulla, solo questa passerella pedonale, diciamo, e dall'altra parte la ferrovia. Niente, lì era successo appunto che loro scendevano provenienti da Tolmino, diciamo, zona di Tolmino, e stavano erano diretti verso Ferkno, dove appunto poi subirono una serie di settimane e mesi molto duri tra, insomma, così le controffensive nazifasciste e tra le difficoltà di fornimenti con i compagni sloveni, sì, i partigiani sloveni, dove appunto aveva assistito a fucilate, se mi ricordo bene, a fucilate di altri suoi compagni per aver rubato magari una mela da un ecco, questa cosa qua della rigidità militarista dei capi, no? Della Garibaldi, questa roba qua non gli era mai andata giù, come anche l'aver avuto a che fare con Gino Lizzero, il suo comandante di brigata, lo ha mandato a fanculo più volte, Insomma, era uno che ti mandava a ammazzare, lui mandava te a morire, ecco, era un generale dell'esercito Gino Lizzer. Inutile, poche balle che si facciano mostre dedicate a Gino Lizzer, tutto quello che volete, ma era uno di questo insomma, di questa società qua, uno che è un pilastro di questa società. Invece quelli appunto come il Doro erano personaggi che non sono delle sagome che buttano via lo stampo dopo, insomma, quando non ci sono più. E così concludo così. Niente, che era comunque era una figura così per me. Un'esperienza per me. Di conoscerlo e avere a che fare cioè, e capire tante cose di cosa voleva essere di quello che era stata la contestazione anche dei partigiani, dei ragazzi di 18-20 anni verso quel mondo che avevano davanti e che comunque poi è proseguito e anche nella loro vita, finita la guerra, hanno dovuto sputare pallini, passare le Alpi, andare a cercare lavoro fuori dall'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo mandare il brano dedicato al Doro. La mona che ti spinge ad agire. Bene, allora avevamo messo nella promo una frase per il, diciamo, questo che vi ho già, di cui vi ho già anticipato argomento di, sul idea di rivoluzione. È una frase sulla rivoluzione francese e che vado a memoria perché non me la sono riuscito a recuperare. Dovete pensare anche, non è una lamentela, ma che il lavoro salariato incombe, e quindi si arriva sempre con l'acqua alla gola a fare questo programma, ma comunque per fortuna mi vengono in aiuto. La rivoluzione francese ci ha lasciato in eredità l'autorità e la subordinazione politica. È una frase di Pierre-Joseph Proudhon, che ben chi insomma si interessa di così anarchismo si è già avuto a che fare, penso, è un classico appunto di questi. Noi stiamo, con la scusa di questo discorso sulla rivoluzione, facendo un po' di una cosa un po' scolastica, però non è neanche tanto male, secondo me, che non è mai niente scontato, no? Qualche volta ritornare sulle figurine, sulla fotografia con vicino anche data di nascita, queste robe qua, e che cosa diceva in maniera molto schematica. Nel caso appunto, perché arriviamo a Proudhon, oltre al fatto che era un appunto è considerato un classico, ma al di là di questo, per il problema del potere, appunto della questione appunto della critica al potere da parte della corrente dell'anarchismo, il discorso è che praticamente con il 1789, appunto, l'avevamo detto, e la rivoluzione francese mette in evidenza il fatto che c'è qualcosa, cioè ci sono diversi apparati, diverse strutture che ormai sono diventate insomma, possono essere identificate, configurate come un qualcosa che è uno stato moderno, non più le entità che c'erano nell'epoca precedente. Sì, con determinate caratteristiche di cui abbiamo parlato la volta scorsa parlando di Godwin, ovvero insomma principio di autorità, cose che non vado a ripetere, ecco, il prevalere sull'individualità appunto dell'autorità, l'accentramento del potere in senso anche spaziale, il monopolio della forza come in un uso legittimo, tra l'altro, della forza fisica, che è fondamento dello Stato. Ecco, queste caratteristiche appunto, come ho detto, emergono con la rivoluzione francese. Seconda questione è anche l'industrializzazione, cioè la modifica dei procedimenti, delle manifatture, di tutto quello, dei beni, delle merci, eccetera, che hanno cioè che sono un esito, comunque mette in luce questo Proudhon, sono un esito di un'evoluzione della razionalità. Adesso lo vedremo, andiamo per ordine, ci aiutiamo sempre con questo saggio di cui parlavo la volta scorsa, Stato e potere nell'anarchismo, di Mirella Larizza, un vecchio saggio degli anni 80. Allora, è il primo Proudhon a criticare il fatto che, insomma, che la necessità dell'apparato burocratico statale è dato per scontato. Questo è precisamente un motivo di incompatibilità con quei famosi principi liberali che erano sostenuti dai giacobini, dalle avanguardie, chiamiamole borghesi. E perché? Perché appunto la sovrabbondanza di questi fastidi burocratici, insomma, per il cittadino, diventa, a parte che si autoalimentano, ma non sono più controllabili, no? Non si possono più esercitare un controllo su queste invadenza della burocrazia. E questo appunto è emerso proprio con la rivoluzione francese, perché al contrario di quello che appare in primo momento, la rivoluzione francese non ha fatto altro che rinforzare il centralismo e la burocrazia. Il centralismo e la burocrazia. Allora, cercavo un brano da leggervi. Vabbè, comunque vado a leggervi un altro brano. C'è incompatibilità radicale, essenziale, tra il sistema di Stato unitario che ci siamo costruiti, che tutti i nostri governi hanno avuto la missione di applicare e di mantenere, che l'opposizione afferma, e l'esercizio dei diritti che la rivoluzione ci ha garantito. Perché a dispetto dei principi che attribuiscono la sovranità alla nazione, sovrano è il potere, che pretende di agire e di farsi rispettare come tale, che nella sua qualità di sovrano rilutta all'esame, al controllo, al resoconto, alla discussione. Sì, non è solo una questione di clientelismo, insomma, di eccessi, di deviazioni, è proprio una cosa essenziale del potere democratico, attenzione, cioè non è distingue tra, cioè era questo, è un, come si dice, una cosa illusoria di dire no, ma tutto questo sovrabbondanza di burocrazia è dovuto al fatto che c'è un tiranno, c'è uno Stato assoluto. No, al contrario, quando ci sono dei rappresentanti eletti in Parlamento, gli apparati, soprattutto fiscale e giudiziario, cioè si manifestano come strumento del potere economico, e parte con tutta una serie di critiche anche, cioè, che potrebbero anche essere spendibili, diciamo, in discorsi anche terra a terra, ecco, sul fatto appunto sul fisco, sui tribunali. Lui dice: lo Stato è tutto nel Ministero delle Finanze, abolire l'imposta significa distruggere lo Stato, no? È anche un discorso sul suo atteggiamento un po' così intellettualistico, nel senso che sembra che sia un discorso solo verbale, no? Abolire vuol dire, una volta che io ho capito che questo qua è la base della truffa, la abolisco e così metto le cose a posto. In realtà non è proprio così, no? Materialmente non è così. Vi dicevo del discorso della razionalità, ma prima di andare avanti direi che possiamo mettere, se credo che possiamo mettere un brano. Thank you. Eccoci. Quindi siamo qui ancora in così, in chiacchiere su queste così posizioni di Proudhon, classico dell'anarchismo ottocentesco. Allora, dicevamo, una cosa importante, prima volevo un concetto importante, secondo me, prima di andare alla razionalità, di cui dicevo, il suo, tutto il suo, diciamo, ricognizione, tutta la sua ricognizione sull'oppressione, insomma, generato dagli apparati amministrativi e che comprime la spontaneità sociale, e tutto questo discorso ha anche a che fare con la denuncia sua, di Proudhon, verso il modello di Stato centralizzato, che non solo che esisteva già, ma che veniva preso a esempio di determinate così nazioni senza Stato che aspiravano ad esserlo e che appunto sono andate a finire proprio su quel modello centralizzato, vedi Italia risorgimentale, perché c'erano appunto insomma, prima del, insomma, siamo nella prima metà dell'Ottocento, di tendenza, insomma, queste correnti alla fine di ispirazione giacobina in qualche maniera, no? Adesso riassumendo, andando un po' anche un po' così in maniera grezza, però per dirne una, anche la stessa questione di Roma capitale, no? Di aver avuto questa non so, si vede anche nei film che vengono tuttora proposti, no? Film così in costume, dove c'è questa ossessione di andare a scontrarsi col Stato Pontificio, di buttare fuori il Papa da Roma, perché Roma deve essere la capitale, no? Che vuol dire andare a finire appunto nel centralismo, nel accentramento dei poteri amministrativi, burocratici e ancora avanti, non solo appunto comunque l'Italia, fu anche la questione polacca, e Proudhon intervenne intervenne in maniera anche controversa con queste chiamiamole di nuovo avanguardie. E per lui appunto la concezione della rivoluzione di matrice giacobina riproduceva il pregiudizio governamentale e assumeva in proprio un modello verticistico e autoritario di organizzazione sociale. Ecco, dicevo della razionalità. Allora, anche questo è curioso, perché sembra che si arriva al, diciamo, alla costituzione politica dello Stato, chiamiamolo parlamentare, grazie, no, all'età dei lumi, grazie alla, diciamo, all'uscita dalle epoche buie, ecco, che hanno preceduto il Settecento, ma questa cosa qui è apparente, no? Andiamo a vedere cosa dice Proudhon. Proudhon ci dice che è vero questo in un cioè, anzi, in origine va ribaltata questo discorso qua. Bisogna fare un ripensamento del potere, no? Se è vero che il paradigma giacobino riproduce un pregiudizio di tipo governamentale, cioè autoritario, bisogna analizzare un po' questo processo. Allora, noi abbiamo di fatto materialmente una società, no? Quindi una costituzione sociale che è un complesso di leggi specifiche, connaturato a quella precisa formazione sociale dentro un contesto, stiamo parlando, no? Questo, no, non stiamo dicendo viva il caos, no? Viva l'individuo, per dire, oppure appunto eccetera. C'è una esiste una costituzione sociale. Dentro questa costituzione sociale si crea appunto questo pregiudizio governamentale, e quindi sarebbe una costituzione politica invece, che prevede un'autorità, un principio di autorità. Allora, grazie alla ragione si arriva a questo, perché inizialmente la ragione ha una funzione disgregante, dice, ostacolando con la sua autocrazia quella socialità a cui l'uomo tenderebbe istintivamente. Però poi, dopo aver raggiunto questo momento, diciamo, disgregativo verso la società, la tendenza disgregativa si rivolge verso lo Stato. E infatti la razionalità va a svolgere una funzione emancipatoria della società, dove deve emergere l'autonomia del sociale sul politico. Allora, l'istituzione avrà un ruolo transitorio, ma poi appunto, passando all'età adulta della società, fra virgolette età adulta, appunto, spariranno tutte i tribunali. Cioè, non è che spariranno, cadranno, però verranno appunto presi completamente, cioè verranno assorbiti dal contratto tra pari, chiamiamolo, che è anche un punto, è una forma che è più adeguata al livello economico-politico raggiunto dalla produzione, dal tipo di produzione, che è quello industriale, no? Allora, di fronte appunto all'emergere del paradigma industriale, parallelamente cadono queste, diciamo, diventano sempre più deboli queste forme autoritarie, burocratiche, centralistiche, e invece guadagnano terreno i contratti volontari, quindi una dimensione privatistica che va a risolvere la dimensione del pubblico. Per concludere, cosa potremmo dire? Niente, no, cioè questo appunto, questo mettere in luce la continuità tra i due tipi di Stato, quello che è lo Stato dispotico e lo Stato parlamentare, che non è una cosa ovvia appunto nel campo appunto democratico, diciamo, giacobino, e anche, diciamo, anche della, chiamiamola anche sinistra hegeliana, insomma, quello che sarà poi appunto i liberali, ecco, dell'Ottocento, era scontato che comunque l'obiettivo era arrivare alla democrazia rappresentativa, al Parlamento. Invece questa roba qua Proudhon la critica, appunto, abbiamo visto come. E poi appunto questo aspetto ambivalente della razionalità, che inizialmente disgrega la spontaneità sociale, e poi però in un secondo momento questa forza disgregativa la rivolge all'istituzione stessa per dissolverla, e quindi apre la possibilità appunto di una società libera, ecco, di senza Stato. Direi che con Proudhon questo frammento l'abbiamo chiuso, anche faticosamente, ma comunque ce l'abbiamo fatta, e appuntamento con questi altri, con i prossimi, diciamo, che saranno Bakunin, senz'altro, per una delle puntate successive a questa. It's Sì, ed è appunto arrivato il momento di presentare anche l'altra iniziativa che a Udine si svolgerà sempre sabato 22 febbraio, cioè una serata presso lo spazio autogestito in via De Rubeis 43, dove proporremo un filmato Beyond the Walls, appunto, sui prigionieri e le prigioniere palestinesi e libanesi. Questo è un filmato, è un documentario praticamente che raccoglie le testimonianze di vari prigionieri e prigioniere, e è del 2012, ma comunque è attuale, perché la situazione, anzi la situazione diciamo è peggiorata in questi anni che ci separano, insomma, da questo documentario. E dalle 18 si vedrà il documentario, appunto, poi si discuterà insieme, si parlerà insieme della condizione dei prigionieri palestinesi, ma anche di quello che i prigionieri palestinesi ci dicono, diciamo, e ci trasmettono rispetto anche alle lotte qui da noi. E poi a seguire ci sarà una cena, appunto, benefit per le spese legali per questo processo che Georges Ibrahim Abdallah, esponente del Fronte di Popolare di Liberazione della Palestina, compagno che è in carcere in Francia da 40 anni, condannato nell'87 all'ergastolo perché accusato di aver contribuito, diciamo, alla morte di un generale americano e di un diplomatico israeliano. E appunto c'è stato questo processo, questo procedimento, insomma, a suo carico, per un fatto, veniva accusato del reato di importazione di materiale esplosivo, per un fatto che risaliva all'agosto dell'84 a Trieste, appunto. Il processo si è concluso con l'assoluzione, in quanto praticamente il reato risulta prescritto. E inoltre i procuratori antiterrorismo francesi avevano stabilito il rilascio condizionale di Georges Ibrahim Abdallah per il dicembre 2024, a patto che di lasciare il territorio francese e di non farvi ritorno. Ed è invece, questa cosa non è avvenuta, cioè non c'è stata la scarcerazione, e addirittura notizia recentissima, insomma, la decisione sulla scarcerazione del compagno è rinviata a giugno per l'opposizione degli Stati Uniti, che non sono mai stati risarciti, quindi per questo fatto, insomma, di questo militare appunto americano. E allora, del poco tempo che ci rimane, ma insomma volevo dire due o tre cose rispetto a questo discorso dei prigionieri palestinesi. Intanto vi leggo due righe di questo. Beh, intanto una cosa significativa, che i prigionieri che riescono a raccontare, a parlare dell'esperienza di detenzione delle prigioni israeliane sono costretti a farlo nell'anonimato, e addirittura non viene detto né il nome ma nemmeno il periodo di detenzione, spesso e volentieri, e il luogo di detenzione, per evitare rappresaglie anche sulle famiglie, perché i servizi segreti israeliani e in generale le forze armate israeliane sono particolarmente spietate e chirurgiche, diciamo, nell'opera di repressione anche di tutte delle famiglie, insomma, dei prigionieri. Allora, quindi, nome è indifferente il nome di questa prigioniera, che dice: le forze di occupazione hanno preso di mira sia i prigionieri uomini che le donne con maggiore regolarità durante i mesi di genocidio di Israele, quindi dal 7 ottobre 23. Hanno cercato di spezzarci il morale in ogni modo possibile. Hanno impedito agli avvocati di farci visita, ci hanno tagliato fuori dalle notizie del mondo, anche quando abbiamo saputo dell'accordo di scambio, perché appunto questa è una prigioniera che è stata scambiata recentemente, hanno cercato di manipolare i nostri sentimenti dicendoci che non saremmo mai stati rilasciati e che avremmo trascorso tutta la vita in prigione. Nonostante questa gioia per essere stata liberata, questa prigioniera non nasconde i suoi sensi di colpa nei confronti della popolazione di Gaza, che è stata sottoposta a un brutale genocidio. Gaza non è solo una città, ci dice, è un'icona di fermezza e sacrificio. Come posso ringraziare la popolazione di Gaza in un modo degno della sua grandezza? Sono loro che hanno sopportato i bombardamenti, la morte e l'assedio, solo perché potessimo avere la libertà. E poi dice appunto, la libertà è incompleta senza il rilascio di tutti i prigionieri. E poi un altro, un'altra testimonianza di un prigioniero che è stato preso poco dopo il 7 ottobre del 23, e racconta un po' le condizioni estreme, i pestaggi, pestaggi continui, ma anche l'affamamento, no? questo fatto di prendere per fame, dice. Spesso ci legavano i polsi con le fibbie di plastica dalla mattina alla sera, a volte ci legavano anche le caviglie, tenevano la luce accesa di notte e spenta di giorno. All'inizio avevamo un'ora d'acqua calda al giorno, poi soltanto un'ora d'acqua fredda al giorno. Fino a gennaio siamo stati senza coperte, poi ce le hanno portate, erano luride e puzzavano. Il cibo era scarso e cattivo. Quel che bastava a non morire diminuiva di continuo: riso quasi crudo, qualche fetta di pane e qualche pezzetto di verdura. Non c'erano né carne né legumi. Ho avuto fame ogni giorno, ho perso 27 kg. Tra l'altro, del carcere dove era detenuto questo prigioniero è stato ucciso Tahir Abu Assab, un uomo che non aveva nemmeno 40 anni, era in carcere da 20 anni, e questo uomo è stato ucciso perché aveva chiesto alla guardia se c'era la tregua, e per questo motivo è stato portato fuori dalla cella e appunto picchiato a morte, e i medici del carcere sono arrivati 2 ore dopo, quindi quando il prigioniero era già morto. Ma questi racconti, allora, c'è da dire che le condizioni delle carceri israeliane per i prigionieri palestinesi sono sempre state terribili. Abbiamo già parlato tante volte anche della detenzione amministrativa, che poi appunto è stata importata anche qua da noi. Però dopo il 7 ottobre c'è stato addirittura, cioè le autorità, ci sono stati dei cambiamenti legislativi. Le autorità israeliane hanno emendato l'Emergency Regulation Act per restringere ancora i diritti dei prigionieri palestinesi, che già sono sottoposti a regime militare e non civile come gli altri prigionieri, a prescindere dall'accusa. Allora, vediamo i cambiamenti: estensione del potere di emettere mandati d'arresto anche a soldati di basso rango, allungamento dei tempi di predetenzione da 14 a 30 giorni, ampliamento del divieto a vedere un avvocato da 7 giorni a 21 giorni, che il giudice militare può estendere fino a 45 giorni senza vedere l'avvocato, e poi altri emendamenti verso i regolamenti carcerari, che prevedono la possibilità di far dormire per terra i detenuti nel caso di sovraffollamento. Dall'8 ottobre i prigionieri sono stati sottoposti a isolamento e a una serie di misure punitive: sezioni chiuse, confisca di libri e TV, divieto a incontrare avvocati e familiari, aumento delle perquisizioni delle celle. Un caso eclatante è stato quello di una sezione femminile della prigione di Damun, dove è stata tolta l'elettricità, sono stati usati lacrimogeni e le detenute sono state private della loro rappresentante. Ecco, inoltre, sempre dopo il 7 ottobre, le autorità di Tel Aviv hanno cominciato a utilizzare nuovi dispositivi di disturbo ad onde sonore, sempre con l'obiettivo di limitare qualsiasi possibilità di contatto dei prigionieri con il mondo esterno e negare loro qualsiasi informazione sul conflitto. Questi dispositivi di disturbo sono apparecchi di nuova generazione, che sono anche cancerogeni, che emettendo un continuo segnale sonoro producono un rumore assordante che provoca mal di testa, malattie croniche e impedisce ai detenuti anche di dormire. Io volevo concludere un po' questa così brevi cenni, insomma, sulle condizioni dei prigionieri palestinesi, parlando di Sumud. E perché quando si parla di detenzioni e di queste condizioni di detenzione, spesso quella che viene definita psichiatria umanitaria parla di post-traumatic stress disorder, no? Prima non ho detto, scusate, che il documentario che proiettiamo parla anche di questo, della difficoltà una volta scarcerati, per i prigionieri e le prigioniere, di ritornare nella vita normale, no? Questo non vale, chiaramente vale per tutti i prigionieri, ma prigionieri che hanno subito accanimento particolare, violenze particolari, per questi prigionieri è ancora più difficile ritornare, diciamo, a una sorta di normalità. Appunto, dicevo, quella che viene detta psichiatria umanitaria parla di post-traumatic stress disorder. Però in Palestina c'è tutta una, come dire, linea di pensiero anche rispetto alla psichiatria o comunque alla cura, diciamo, dei mali dell'anima, e psichiatria e psicologia anche, che rifiuta questo concetto, perché dice c'è una sindrome, diciamo, post-traumatica da stress, sì, post-traumatica, se il trauma ha un post. Però ad esempio la psicologa Samaya Jabr dice: ma in realtà in Palestina il trauma non ha un post, la modalità con cui la storia e l'occupazione israeliana si ripetono è proprio questa ripetizione traumatica che dà luogo a una situazione di stallo, di soffocamento, che si esprime e si manifesta attraverso i sintomi. Ci dice Saba Jabr: possiamo cogliere il senso dell'associazione tra trauma e struttura. In Palestina il trauma è diventato la struttura stessa dell'individuo e non solo un evento limitato a un preciso momento storico e biografico. Però la popolazione palestinese reagisce tramite il Sumud, e ci dice: il Sumud indica una pratica psicosociale che si traduce nella volontà individuale e collettiva di opporsi al dispositivo coloniale d'occupazione. E quindi a questa definizione se ne aggiunge un'altra politica. Questa accezione semantica è emersa durante la prima intifada 1987-1993, con la generalizzazione dell'imprigionamento arbitrario e della tortura. Sumud in quel momento diviene sinonimo di una opposizione radicale all'occupazione, i cui effetti non si manifestano unicamente da un punto di vista territoriale, ma anche da un punto di vista della dimensione psichica e fisica dell'individuo. E oggi il Sumud indica un'alternativa alla triade depoliticizzazione, patologizzazione e vittimizzazione dell'individuo promulgata dalla psichiatria umanitaria. Tramite il Sumud, i clinici palestinesi propongono un approccio al trauma facendo uso di un linguaggio che sia in grado di cogliere l'aspetto politico della sofferenza e del dolore, pur senza cadere nel rischio di una versione romantica e idealista del tragico e della morte. Il Sumud, quindi, che viene tradotto anche come resistenza, ma anche come fermezza, nel senso di rimanere fermi sulle proprie posizioni e anche nella propria terra. Il Sumud è anche in grado di mantenere l'equilibrio estremamente delicato tra la sofferenza individuale riletta al proprio percorso biografico e la sofferenza collettiva riletta al contesto storico-politico, tra la storia, le storie personali e la storia più generale, più collettiva. E questo discorso anche della morte, appunto, spesso anche i morti, i prigionieri morti o comunque i combattenti palestinesi morti, il corpo dei combattenti o dei prigionieri viene negato alle comunità, alle famiglie, o viene negato o viene seppellito, cioè i cimiteri dove questi corpi vengono seppelliti diventano zone militari, quindi la gente non ci può andare. Allora loro che cosa fanno? Praticamente le famiglie cercano di reagire invertendo la logica coloniale, che vuole fare del defunto un oggetto senza statuto, senza territorio, senza storia. L'espressione araba Eichmatt, Vivere la morte, inverte la relazione tra l'assenza e la presenza, tra la vita e la morte, e trasforma il lutto in modalità di sopravvivenza, di riaffermazione della vita a partire dalla morte stessa. Non si tratta di vivere la morte, ma di ridare vita ai morti e in questo modo di guarire i traumi e le ferite che i morti hanno subito. In un regime coloniale che fa dei palestinesi dei presenti assenti, ci dice Elias Sambar, persino nella loro morte, allora la morte stessa diventa una dimensione paradossale e dolorosa di affermazione di una presenza e del rifiuto di un dispositivo che impedisce ai defunti di vivere la propria morte. Questo per dire che cioè quante cose, insomma, quante così concetti, quante, quanti modi di essere il popolo palestinese ci trasmette e con questi ci trasmette per trasmettere forza, ecco. Cioè, questo era per dire che appunto anche l'idea di proporre questo documentario sui prigionieri palestinesi è in un'ottica di forza e non di, non per piangersi addosso, al contrario, per dire che appunto non ci può essere libertà finché non ci sarà il rilascio di tutti i prigionieri, ma non solo in Palestina in maniera chiaramente grandiosa, ma questa è una questione che, riguarda, che ci riguarda tutti, insomma, e con questo spirito la, la proponiamo, proponiamo questa iniziativa. Quindi ricordo ancora le due iniziative di sabato, allora alle dalle 11 Piazza della Repubblica, zona stazione a Udine, presidio contro le zone rosse, il DDL sicurezza e lo stato di polizia, e sempre sabato 22 dalle ore 18 proiezione del documentario sui prigionieri palestinesi Beyond the Walls, e a seguire cena benefit per George Ibrahim Abdallah. Bene, sulle note di questa band statunitense, che tra l'altro abbiamo anche passato prima degli interventi, loro sono i Fugazi, band di Washington, dal loro album datato 1989 che si chiama semplicemente 13 Songs, 13 brani. E ci salutiamo, siamo anche proprio fuori tempo limite. Ricordo che questa è la trasmissione Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, oggi 20 febbraio 2025, e tra l'altro ricordo per che il prossimo giovedì non saremo in onda perché qui per questioni tecniche qui alla radio non possiamo trasmettere, e di conseguenza probabilmente andrà anche sulla web radio, che va in replica domani alle ore 17, probabilmente andremo due volte con lo stesso programma. Comunque salutiamo tutti, ricordo i nostri contatti, zardinsmagneticsradio.noblogs.org, e per chi volesse riascoltare questa trasmissione, ripeto, zardismagneticsradio.noblogs.org, che può riascoltare questa trasmissione e quella delle volte scorse. E la nostra posta elettronica è liberetutti@autistiche.org, oppure scriverci direttamente in forma cartacea, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Bene, ciao a tutti e a risentirci tra due giovedì.